Giobbe. C'era nella regione di Uz un uomo chiamato Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 coppie di buoi, 500 asine ed una numerosissima servitù. Quest'uomo era il più ricco fra tutti gli orientali. Or i suoi figli solevano celebrare dei banchetti a turno in casa di uno o dell'altro e mandavano ad invitare le loro 3 sorelle per banchettare insieme. Terminato il ciclo dei conviti, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino ed offriva un olocausto per ognuno di essi, perché diceva: «Forse i miei figli hanno peccato oltraggiando Dio nel loro cuore». Giobbe soleva fare così immancabilmente. Però un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e tra di essi venne anche Satana. Il Signore disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dal vagabondare sulla terra dopo averla girata». E il Signore a Satana: «Hai fatto attenzione al mio servo Giobbe? Sulla terra non c'è un altro come lui, uomo integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per niente? Non hai forse protetto con uno steccato lui, la sua casa e tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto le sue imprese ed i suoi greggi si dilatano nella regione. Ma stendi la tua mano e colpisci le sue possessioni e vedrai come ti maledirà in faccia». Il Signore disse a Satana: «Ecco, tutto ciò che è suo è in tuo potere, però non portare la tua mano sulla sua persona». E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Or avvenne che il giorno in cui i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano in casa del loro fratello maggiore, giunse un messaggero da Giobbe e disse: «Mentre i buoi stavano arando e le asine erano al pascolo nelle vicinanze, irruppero i Sabei, li predarono e passarono a fil di spada i guardiani. Io solo sono scampato per venirtelo a dire». Mentre costui stava ancora parlando, giunse un altro a dire: «Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, bruciò le pecore e i guardiani, incenerendoli. Io solo sono scampato per venirtelo a dire». Mentre costui stava ancora parlando, giunse un altro a dire: «I Caldei, divisi in 3 gruppi, si precipitarono sui cammelli, li presero e passarono a fil di spada i guardiani. Io solo sono scampato per venirtelo a dire». Mentre costui stava ancora parlando, giunse un altro a dire: «I tuoi figli e le tue figlie stavano ancora mangiando e bevendo vino nella casa del loro fratello maggiore, quando un vento impetuoso, venendo da oltre il deserto, investì i 4 angoli della casa. Questa cadde sui giovani che sono morti. Io solo sono scampato per venirtelo a dire». Allora Giobbe, alzatosi, si strappò il manto, si rase il capo e, caduto a terra, prostrato, disse: «Nudo sono uscito dal ventre di mia madre e nudo vi farò ritorno. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore». In tutto ciò Giobbe non commise peccato, né proferì alcuna insolenza contro Dio. Avvenne che un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore. Fra essi venne anche Satana per presentarsi davanti al Signore. Il Signore disse a Satana: «D'onde vieni?» Satana rispose al Signore: «Dal vagabondare sulla terra dopo averla girata». Il Signore replicò a Satana: «Hai fatto attenzione al mio servo Giobbe? Sulla terra non c'è un altro come lui, uomo integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male. Egli persevera ancora nella sua integrità e senza ragione tu mi hai eccitato contro di lui per rovinarlo». Ma Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle, tutto quanto possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi di grazia la tua mano e colpisci le sue ossa e la sua carne. Vedrai se non ti maledirà in faccia». Allora il Signore disse a Satana: «Eccolo in tuo potere, soltanto risparmia la sua vita». Allontanatosi dalla presenza del Signore, Satana colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino in cima al capo. Allora, preso un coccio per grattarsi, Giobbe si mise seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse: «Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori». Ma egli rispose: «Parli come un'insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male?» In tutto questo Giobbe non peccò con la sua bocca. Or tre amici di Giobbe, apprese tutte queste disgrazie che si erano abbattute su di lui, partirono ciascuno dal suo paese: Elifaz il Temanita, Bildad il Succhita e Zofar il Naamatita. Insieme si accordarono per andare a commiserarlo e a consolarlo. Alzando i loro occhi da lontano, non lo riconobbero. Allora si misero a piangere a gran voce. Ognuno, strappato il manto, si cosparse di polvere il capo. Poi si sedettero a terra presso di lui per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolse la parola, perché avevano visto quanto grande era il suo dolore. Dopo di ciò, Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Giobbe prese la parola e disse: «Perisca il giorno nel quale sono nato, e la notte che ha detto è stato concepito un uomo. Che quel giorno sia tenebre, che da lassù Dio non ne abbia cura, non brilli sopra di lui la luce. Che lo rivendichino tenebre e ombra funerea, che si posi sopra di lui una nube, le eclissi lo rendano spaventoso. Quella notte se la possegga il buio, essa non si aggiunga ai giorni dell'anno e non entri nel computo dei mesi. Sì, quella notte sia infeconda e non vi penetri l'allegrezza. La maledicano quelli che imprecano all'oceano, coloro che sono esperti nel risvegliare Leviatan. Si oscurino le stelle della sua aurora, attenda la luce e non venga e non veda i guizzi dell'aurora, perché essa non chiuse per me il varco della matrice e non sottrasse ai miei occhi tanta miseria. Perché non sono morto sin dal seno materno e non sono spirato appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi accolsero e perché due mammelle per allattarmi? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e godrei il riposo. Insieme ai re e ai governanti della terra che si sono costruiti mausolei, o insieme ai nobili che possiedono oro, o riempiono di argento i loro palazzi. O perché non sono stato come un aborto interrato, come i bimbi che non hanno visto la luce. Laggiù i malvagi cessano di agitarsi e là riposano gli sfiniti di forze. I prigionieri stanno tranquilli insieme a loro, senza udire più la voce dell'aguzzino. Laggiù piccoli e grandi si confondono e lo schiavo è libero dal suo padrone. Perché dar la luce ad un infelice e la vita agli amareggiati nell'animo, a coloro che attendono la morte che non viene e si affannano a ricercarla più di un tesoro, che godono andando verso il tumulo ed esultano perché trovano una tomba, a un uomo il cui cammino è nascosto e che Dio da ogni parte ha sbarrato. Così come mio alimento vengono i sospiri e i miei gemiti sgorgano come acqua, perché ciò che io temo mi incoglie e ciò che mi spaventa mi sopraggiunge. Non ho tranquillità, non ho pace, non ho posa. Mi assale il tormento. Allora Elifaz di Teman prese la parola e disse: «Oseremo rivolgerti la parola? Tu sei depresso. Eppure chi potrebbe trattenere il discorso? Vedi, tu facevi la lezione a molti e ridavi vigore a mani inerti. Le tue parole sostenevano i vacillanti e rinfrancavano le ginocchia che si piegavano. Ma ora tocca a te, sei depresso. Ora che il colpo ti raggiunge, ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia e l'integrità della tua condotta la tua speranza? Rammenta dunque, quale innocente è mai perito e dove si son visti i giusti sterminati? Per quanto ho constatato, coloro che coltivano malizia e seminano miseria mietono tali cose. Periscono ad un soffio di Dio e sono annientati ad un alito della sua ira. Il ruggito del leone, le urla della belva e i denti dei leoncelli sono frantumati. Muore il leone per mancanza di preda e i piccoli della leonessa devono disperdersi. Ora mi fu detta furtivamente una parola e il mio orecchio ne carpì il mormorio tra i fantasmi di visioni notturne quando il letargo cade sugli uomini. Un terrore mi prese ed uno spavento che fece tremare tutte le mie ossa. Un vento mi passò sulla faccia e mi si rizzarono i peli della carne. Uno stava in piedi, non ne distinguevo l'aspetto. Solo una figura apparve ai miei occhi. Poi udii una voce sommessa. Può l'uomo essere giusto davanti a Dio? O un mortale essere puro davanti al suo creatore? Vedi, egli non si fida nemmeno dei suoi servi e nei suoi messaggeri riscontra difetti. Quanto più in coloro che abitano case di fango, i cui fondamenti si trovano nella polvere e sono corrosi dal tarlo. Dall'alba alla sera sono ridotti in polvere, senza che nessuno lo avverta, periscono per sempre. Non sono forse già strappate le corde della loro tenda e muoiono senza sapere come? Grida, dunque. C'è forse qualcuno che ti risponde? A chi tra i santi ti rivolgerai? In verità, il dolore reca la morte allo stolto e la collera fa morire l'inesperto. Ho visto l'insensato mettere radici e subito vidi maledetta la sua dimora. I suoi figli sono privi di aiuto, sono oppressi in tribunale senza difensore. Le loro messi le divora l'affamato, rubandole malgrado le siepi, e l'assetato ne inghiotte gli averi. Certo, la sventura non nasce dal suolo e la disgrazia non germoglia dalla terra, ma è l'uomo che genera la miseria, come le aquile volano in alto. Quanto a me, mi rivolgerei a Dio. A Dio affiderei la mia causa, a Lui che compie prodigi insondabili e meraviglie senza numero, che manda la pioggia sulla terra e versa le acque sulle campagne, innalza gli umili e gli afflitti solleva a prosperità. Rende vani i pianti degli astuti, così che le loro mani non realizzino le loro previsioni. Accalappia i sapienti nelle loro astuzie e fa abortire gli intrighi degli scaltri. In pieno giorno incappano nelle tenebre e a mezzogiorno brancolano come di notte. Così Dio salva il povero dalla lingua affilata, dalla mano violenta. C'è una speranza per il misero, mentre l'ingiustizia chiude la bocca. Perciò felice l'uomo che Dio corregge. Non ricusare dunque la lezione dell'Onnipotente. Veramente è Lui che produce la piaga e la medica, colpisce e con le sue mani risana. Da 6 angustie ti libererà e alla 7ª non soffrirai nessun male. In tempo di fame ti scamperà dalla morte e nel combattimento dal filo della spada. Sarai al riparo dalla lingua pungente e non avrai timore quando giunge la rovina. Te ne riderai della sventura e della fame e non temerai le fiere della campagna. Farai un'alleanza con le pietre del campo e sarai in pace con le bestie selvagge. Sperimenterai la prosperità della tua tenda e, ispezionando la tua dimora, non ti mancherà nulla. Scoprirai che la tua prole è numerosa ed i tuoi rampolli come l'erba nel prato. Te ne andrai alla tomba senza acciacchi, come il grano raccolto nella sua stagione. Ecco quanto abbiamo studiato a fondo, è così. Ascolta e fanne profitto. Allora Giobbe prese la parola e disse: «Oh, se si potesse pesare il mio cruccio e si mettesse sulla bilancia la mia sventura, certamente sarebbe più pesante dell'arena del mare. Per questo le mie parole sono confuse. Sì, le frecce dell'Onnipotente mi stanno infitte. Il mio spirito ne succhia il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro. Raglia forse l'asino selvatico di fronte all'erba, o muggisce il bue innanzi al foraggio. Si mangia forse senza sale cibo insipido, o che gusto c'è nella chiara d'uovo? Ciò che mi rifiutavo di toccare è ora il mio cibo nauseante. Oh, se si realizzasse il mio desiderio e Dio mi concedesse ciò che spero. Volesse Dio schiacciarmi, stendere la sua mano e sopprimermi. Sarebbe per me un conforto. Salterei di gioia nell'angoscia senza pietà per non aver rinnegato le sentenze del santo. Qual è la mia forza per poter resistere? O qual è la mia fine per prolungare la mia vita? È forse la mia forza quella delle pietre? E la mia carne è forse di bronzo? Non è forse vero che non incontro appoggio in me ed ogni soccorso mi è precluso? L'uomo disfatto ha diritto alla pietà del suo prossimo, anche se avesse abbandonato il timore dell'Onnipotente. I miei fratelli mi hanno tradito come un torrente, come l'alveo dei rivi che scompaiono. Erano gonfi allo sciogliersi del ghiaccio, quando su di essi fondevano le nevi, ma al tempo della siccità svaniscono e con l'arsura scompaiono dai loro letti. Le carovane deviano dalle loro piste, avanzano nel deserto e si perdono. Le carovane di Teman fissano attente il loro corso. I convogli di Seba contano sui torrenti, però rimangono delusi per aver sperato, e quando arrivano rimangono confusi. Ebbene, così siete ora voi per me. Vedete che faccio orrore ed avete paura. Vi ho forse detto: datemi qualche cosa? O dei vostri beni fatemi un regalo? O liberatemi dalle mani del nemico? O riscattatemi dal potere dei violenti? Istruitemi e starò in silenzio. Fatemi conoscere in che cosa ho sbagliato. Sarebbero forse offensive le parole giuste? Ma che cosa provano i vostri argomenti? Pensate forse voi di criticare parole, un discorso che un disperato ha disperso al vento? Giungereste fino a tirare a sorte un orfano e mettere in vendita il vostro amico. Ed ora degnatevi di volgervi verso di me. Certo, non vi mentirò in faccia. Ripensateci di grazia. Non si faccia ingiustizia. Ricordatevi ancora, è in causa la mia innocenza. C'è forse iniquità sulle mie labbra? O il mio palato non distingue più le sventure? Non sta compiendo l'uomo un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario attende la sua mercede, così a me sono toccati in sorte mesi di illusione e notti d'affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, penso, quando mi alzerò? Ma la notte si prolunga e sono oppresso da ansie sino all'alba. La mia carne si è rivestita di vermi e croste terrose. La mia pelle si raggrinza e si squama. I miei giorni sono stati più veloci di una spola e si sono consumati senza speranza. Ricorda che la mia vita non è che un soffio, ed i miei occhi non rivedranno più il bene. Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi saranno su di me ed io sarò scomparso. Come una nube si dilegua e se ne va, così chi scende nello Sheol non ne risale. Non tornerà più nella sua casa e non lo rivedrà più la sua dimora. Perciò non terrò chiusa la bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore. Sono forse io il mare, oppure un mostro marino, perché tu mi faccia sorvegliare da una guardia? Quando penso che il mio giaciglio mi darà sollievo e il mio letto allevierà la mia sofferenza, allora tu mi terrorizzi con sogni e mi atterrisci con fantasmi. Preferirei essere soffocato e morire piuttosto che avere queste mie pene. Sono sfinito. Non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. che cosa è il mortale? Perché tu ne faccia tanto caso e a lui rivolga la tua attenzione al punto di ispezionarlo ogni mattino e metterlo alla prova ogni istante. Perché non cessi di spiarmi e non mi lasci nemmeno inghiottire la saliva? Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, scrutatore dell'uomo? Perché mi hai preso come bersaglio e ti sono diventato di peso? Perché non perdoni il mio peccato e non allontani la mia colpa? Giacché ben presto giacerò nella polvere, mi cercherai ed io più non sarò. Allora Bildad di Suk prese la parola e disse: fino a quando dirai simili cose e un vento impetuoso saranno le parole della tua bocca? Può forse Dio far deviare il giudizio e l'Onnipotente sconvolgere la giustizia? Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha abbandonati alla loro iniquità. Se tu ricercherai Dio e implorerai l'Onnipotente, se sei onesto e retto, certamente fin d'ora veglierà su di te e ti ristabilirà nella tua giustizia. La tua primitiva condizione sarà poca cosa accanto al tuo magnifico futuro. Interroga di grazia le generazioni passate e rifletti sull'esperienza dei loro padri. Noi infatti siamo di ieri e non sappiamo nulla, giacché i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra. Ma essi ti istruiranno, ti informeranno traendo le parole dal loro cuore. Cresce forse il papiro fuori della palude e si sviluppa forse il giunco senz'acqua? Ancora in germoglio, non buono per tagliarlo, si secca prima di tutte le altre verdure. Tale è il destino di coloro che dimenticano Dio, così svanisce la speranza dell'empio. La sua fiducia è come un filo e una tela di ragno è la sua sicurezza. Cerca appoggio sulla sua casa, ma essa non tiene, vi si aggrappa, ma essa non regge. È albero rigoglioso in faccia al sole e sopra il giardino si spandono i suoi rami. Le sue radici si intrecciano nella pietraia, esplora i crepacci delle rocce. Ma se lo si strappa dal suo posto, questo lo rinnega: non ti ho mai visto. Ecco la sorte della sua vita, mentre altri rispuntano dalla terra. Vedi, Dio non rigetta l'uomo integro, né presta manforte ai malfattori. Può ancora colmare la tua bocca di sorriso e le tue labbra di giubilo. Coloro che ti odiano saranno coperti di vergogna e la tenda degli empi sparirà. Giobbe prese la parola e disse: certo, so che è così. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non gli risponderebbe una volta su mille. Chi, saggio di mente e potente per la forza, gli si è opposto ed è rimasto illeso? Egli sposta le montagne senza che se ne avvedano e le sconvolge nella sua collera. Egli scuote la terra dal suo posto e le sue colonne vacillano. Ordina al sole di non sorgere e mette un sigillo alle stelle. Egli da solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Egli forma l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del sud. Compie prodigi insondabili e meraviglie senza numero. Ecco, mi passa vicino e non lo vedo. Se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi può dirgli: che cosa fai?

Ora so che pensavi così. Se ho peccato, tu mi sorvegli e non mi lasci impunito per la mia colpa. Se sono colpevole, guai a me. Se sono innocente, non oso alzare il capo, sazio come sono di ignominia e colmo di miseria. Se alzo la fronte, mi dai la caccia come un leone, rinnovando le tue prodezze contro di me. Ripeti i tuoi assalti contro di me, aumentando contro di me la tua ira, lanciando truppe sempre fresche contro di me. Perché dunque mi hai fatto uscire dal seno materno? Fossi morto, senza che occhio mi avesse visto. Sarei come se non fossi mai esistito, condotto dal ventre alla tomba. Non sono poca cosa i giorni della mia esistenza. Lasciami allora, così che possa respirare un poco, prima che me ne vada per non tornare più nella regione di tenebre e di ombra, terra oscura come caligine, regione di tenebre e di disordine, dove il chiarore è simile alla notte buia. Allora Zofar, il Naamatita, prese la parola e disse: una tale quantità di parole resterà senza risposta? Dovrà forse aver ragione il ciarlatano? I tuoi sproloqui faranno tacere la gente? Ti farai beffe senza che nessuno ti confonda? Tu hai detto: la mia dottrina è pura e sono irreprensibile davanti a te. Ah, se Dio volesse parlare e aprire le sue labbra contro di te, se ti rivelasse i segreti della sapienza, che sono ambigui ad intendersi, allora tu sapresti che Dio perdona parte della tua colpa. Pretendi forse di sondare l'intimo di Dio e di penetrare la perfezione dell'Onnipotente? Essa è più alta dei cieli, che farai? È più profonda dello Sheol, che ne puoi sapere? È più estesa della terra nella sua dimensione e più vasta del mare. Se si presenta, imprigiona qualcuno e lo cita in giudizio, chi glielo può impedire? Sì, egli conosce gli uomini falsi, vede l'iniquità e l'osserva. L'uomo stolto mette giudizio quando il puledro di un onagro nasce uomo. Tu invece, se rivolgi il tuo cuore a Dio, estendi verso di Lui le tue mani. Se allontani dalla tua mano l'iniquità, se non permetterai all'ingiustizia di abitare nella tua tenda, allora potrai levare la tua fronte senza macchia, starai saldo e non avrai timore. Allora dimenticherai le disgrazie, le ricorderai come acqua passata. La tua vita risorgerà più bella di un meriggio e le tenebre diventeranno come un mattino. Sarai sicuro perché c'è speranza e, guardandoti intorno, riposerai tranquillo. Dormirai senza che nessuno ti disturbi, anzi molti cercheranno il tuo favore. Invece gli occhi dei malvagi si consumano. Ogni scampo verrà loro a mancare. La loro speranza è l'ultimo respiro. Allora Giobbe rispose: davvero voi siete gente importante e con voi morirà la sapienza. Ma anch'io ho senno come voi. Non sono da meno di voi. Del resto, chi ignora tali cose? Sono un oggetto di beffa per il mio vicino, io che gridavo a Dio per avere una risposta. Deriso è il giusto, il perfetto. Disprezzo per l'infelice, pensano i soddisfatti. Un colpo per coloro il cui piede vacilla. Sono tranquille le tende dei razziatori. C'è sicurezza per coloro che provocano Dio, pensando di ridurlo il loro potere. Ma interroga pure le bestie, esse ti istruiranno. Gli uccelli del cielo, essi ti informeranno. O i rettili della terra, essi ti daranno lezione. Te lo racconteranno i pesci del mare. Chi non sa tra tutti questi esseri che la mano del Signore ha fatto questo? Egli tiene in suo potere l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni carne umana. Forse che l'orecchio non distingue le parole e il palato non gusta i cibi? Presso gli anziani sta la sapienza e nella vita lunga la prudenza. In lui risiede la sapienza e la forza, sue sono la perspicacia e la prudenza. Ecco, ciò che egli distrugge non viene riedificato. Se imprigiona qualcuno, non si può liberare. Se trattiene le acque, è la siccità. Se le lascia scorrere, devastano la terra. Egli possiede potenza ed efficacia. In suo potere sono l'ingannato e l'ingannatore. Fa andare scalzi i consiglieri e colpisce di demenza i governanti. Spoglia i re delle loro insegne e cinge con una corda i loro fianchi. Fa andare scalzi i sacerdoti e fa deviare i potenti. Toglie la parola ai confidenti e priva di senno gli anziani. Versa il disprezzo sui nobili ed allenta la cintura dei robusti. Svela gli abissi delle tenebre ed espone alla luce l'ombra di morte. Fa grandi i popoli e poi li fa perire. Incrementa le nazioni e poi le sopprime. Toglie il senno ai capi del paese e li fa vagare per solitudini impervie. Brancolano a tentoni nelle tenebre, senza luce, e li fa barcollare come ubriachi. Sì, il mio occhio ha visto tutto questo. Il mio orecchio l'ha udito e l'ha compreso. Ciò che voi sapete lo so anch'io. Non sono da meno di voi. Però voglio rivolgermi all'Onnipotente. Desidero discutere con Dio. Voi invece siete manipolatori di falsità. Siete tutti medici da nulla. Oh, se taceste del tutto, sarebbe per voi un atto di sapienza. Ascoltate, vi prego, la mia difesa e fate attenzione alla perorazione delle mie labbra. Volete forse dire falsità in favore di Dio e per Lui parlare con inganno? Volete prendere il partito di Dio e farvi suoi avvocati? Sarebbe bene che vi esaminasse. O volete ingannarlo come si inganna un uomo? Certamente egli vi riprenderà se in segreto prendete partito per qualcuno. La sua maestà non vi spaventa e il terrore di lui non vi assale? Le vostre sentenze sono proverbi di cenere, le vostre risposte sono difese d'argilla. Tacete, lasciatemi. Ora voglio parlare io, qualunque cosa mi capiti. Afferrerò la mia carne con i denti, porrò la mia vita nelle mie mani. Certo, mi ucciderà, non ho più speranza, tuttavia difenderò la mia condotta davanti a lui. Già questo sarà per me una vittoria, perché un empio non compare davanti a lui. Ascoltate attentamente le mie parole ed il mio discorso giunga ai vostri orecchi. Ecco, ho preparato un processo cosciente di essere innocente. Chi dunque vuole contendere con me? Tacere ora sarebbe morire. Solo assicurami queste due cose, e allora non mi nasconderò davanti a te. Allontana da me la tua mano, e il tuo terrore più non mi spaventi. Poi accusami, e io risponderò, oppure parlerò io, e tu risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere le mie trasgressioni e le mie mancanze. Perché nascondi il tuo volto e mi consideri come un tuo nemico? Perché vuoi spaventare una foglia sbattuta dal vento? Ti accanisci contro una paglia secca? Perché tu redigi contro di me amari verdetti e mi imputi le colpe della mia giovinezza? Tu poni i miei piedi nei ceppi e sorvegli tutti i miei passi, rilevando le impronte dei miei piedi. L'uomo nato da donna, vivendo pochi giorni in preda all'agitazione, sboccia come fiore e avvizzisce, fugge come l'ombra senza arrestarsi. Si consuma come legno tarlato, come un vestito corroso dalla tignola. E tu tieni aperti gli occhi su di lui e lo citi in giudizio con te. Chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi giorni sono fissati, se conosci il numero dei suoi mesi, avendo posto un limite invalicabile, distogli lo sguardo da lui e lascialo stare finché non abbia portato a termine la sua giornata come un salariato. Per l'albero, infatti, esiste una speranza. Se viene tagliato, ancora ributta ed il suo germoglio non viene meno. Anche se la sua radice invecchia sotterra e il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua rinverdisce e mette rami come una giovane pianta. L'uomo invece, se muore, resta inerte. Dov'è il mortale quando spira? Potranno venir meno le acque del mare, i fiumi prosciugarsi e seccare, ma l'uomo che giace più non si alzerà. Finché durano i cieli non si sveglierà, né più si desterà dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nello Sheol, occultarmi finché sarà passata la tua ira, fissarmi un termine e ricordarti di me. Ma se l'uomo muore, può ancora rivivere. Ogni giorno del mio servizio aspetterei finché giunga il mio cambio. Mi chiameresti ed io risponderei quando tu avessi nostalgia per l'opera delle tue mani. Mentre ora tu vai contando i miei passi, non spieresti più il mio peccato, sigilleresti in un sacco il mio peccato e porresti l'intonaco sulla mia colpa. Ma invece, come una montagna cade e si sfalda, e come una rupe frana dal suo posto, e le acque corrodono le pietre, e l'alluvione inonda la superficie della terra, così tu annienti la speranza dell'uomo. Tu lo abbatti per sempre ed egli se ne va,

Chi concepisce malizia genera sventura, ed il suo ventre nutre la delusione. Allora Giobbe rispose: ho sentito molti discorsi come questi. Tutti voi siete dei consolatori importuni. Non c'è un limite per i discorsi vuoti. O che cosa ti costringe a rispondere ancora? Ora anch'io potrei parlare come voi se foste al mio posto. Moltiplicherei i discorsi contro di voi, scuotendo contro di voi il mio capo. Vi darei forza con la mia bocca, vi calmerei muovendo le labbra. Se parlo, non cessa il mio dolore. Se taccio, esso non si allontana da me. Ora però, egli mi ha spossato, fiaccato, la sua guardia mi ha preso, è insorto a testimoniare contro di me. Il mio calunniatore depone contro di me. Il suo furore mi dilania e mi perseguita, digrigna i denti contro di me. Il mio avversario aguzza contro di me gli occhi. Spalancano contro di me la bocca, con ingiurie mi percuotono le guance, assieme si accalcano contro di me. Dio mi consegna ai malvagi. Mi getta nelle mani degli scellerati. Vivevo tranquillo ed egli mi ha rovinato. Mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato. Ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi dardi mi circondano da ogni parte. Mi trafigge i fianchi senza pietà e versa a terra il mio fiele. Mi apre ferita su ferita, mi assale come un guerriero. Ho cucito un sacco sulla mia pelle ed ho prostrato la fronte nella polvere. La mia faccia è rossa per il pianto e l'ombra mi vela le pupille. Eppure non c'è violenza nelle mie mani e la mia preghiera è sincera. O terra, non coprire il mio sangue e il mio grido non abbia sosta. Ma ecco, sin d'ora il mio testimone è nei cieli. Il mio difensore è lassù, in alto, colui che interpreta i miei sentimenti presso Dio. Verso di lui alzo i miei occhi piangenti. Egli sia arbitro tra l'uomo e Dio, come tra un uomo ed il suo avversario. Perché passano i miei anni contati ed io intraprenderò il viaggio senza ritorno. Il mio spirito è turbato, i miei giorni si spengono, mi attende il cimitero. Non sono io circondato da beffardi. Nelle amarezze passa le notti il mio occhio. Deponi dunque la mia cauzione presso di te, altrimenti chi stringerebbe per me la mano? Giacché tu hai privato il loro cuore della ragione, perciò non potranno prevalere. Come chi invita gli amici a parte del suo pranzo, mentre gli occhi dei suoi figli languiscono. Mi hai fatto la favola delle genti. Sono uno cui si sputa in faccia. Il mio occhio si offusca per il cruccio, tutte le mie membra non sono che ombra. I giusti si stupiscono di ciò e l'innocente si indigna contro il malvagio. Però il giusto si conferma nella sua condotta e chi ha le mani pure raddoppia il coraggio. Quanto a voi, ritornate tutti, venite dunque, sebbene non trovi un sapiente tra voi. I miei giorni sono passati, sono svaniti i miei progetti, i desideri del mio cuore. pretendono che la notte sia giorno, che la luce sia imminente quando giungono le tenebre. Che cosa posso sperare? Lo Sheol è la mia dimora. Nelle tenebre distendo il mio giaciglio. Al sepolcro io grido: tu sei mio padre, e dai vermi mia madre e mie sorelle. Dov'è dunque la mia speranza? Il mio benessere, chi l'ha visto? Scenderà con me nello Sheol quando caleremo insieme nella polvere. Allora Bildad di Suk prese la parola e disse: fino a quando andrai a caccia di parole? Rifletti e poi parleremo. Perché siamo considerati come bestie e passiamo per degli idioti ai tuoi occhi? Tu che ti rodi nella tua rabbia, forse che a causa tua la terra sarà abbandonata? O che la roccia si staccherà dal suo posto? Sì, la luce del malvagio si spegne e la fiamma del suo focolare non brilla più. Si oscura la luce nella sua tenda e la lucerna si estingue sopra di lui. I suoi passi vigorosi si accorciano, i suoi progetti lo fanno stramazzare. Infatti, con i suoi piedi incappa nella rete e cammina sopra un tranello. Un laccio lo afferra per il tallone, un nodo lo stringe intorno. Gli è nascosta per terra una fune e una trappola sul sentiero. Da ogni parte lo atterriscono gli spaventi e gli si mettono alle calcagna. La sua ricchezza si muta in fame e la sfortuna gli si mette a fianco. La sua pelle è corrosa dalla malattia. Il primogenito della morte gli consuma le membra. È strappato dalla sua tenda dove si sentiva sicuro per essere trascinato dal re dei terrori. Il fuoco è posto nella sua tenda. Nella sua dimora si sparge lo zolfo. In basso le sue radici si seccheranno, sopra saranno tagliati i suoi rami. Il suo ricordo è sparito dalla terra e il suo nome non si udrà più nella contrada. Lo cacceranno dalla luce alle tenebre e lo bandiranno dall'universo. Non avrà né figli né discendenza tra il suo popolo. Non vi sarà superstite nella sua dimora. Della sua fine stupirà l'Occidente e l'Oriente sarà preso dal brivido. Ecco qual è la sorte dell'empio. Tale è il destino di chi misconosce Dio. Allora Giobbe rispose: fino a quando mi tormenterete e mi affliggerete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi ingiuriate. Non avete vergogna di torturarmi. Anche se fosse vero che ho mancato, su di me ricadrebbe il mio errore. Se realmente volete prevalere contro di me, rimproverandomi ciò di cui ho vergogna, sappiate dunque che Dio mi ha fatto torto e mi ha impigliato nella sua rete. Ecco, se grido contro la violenza, non ricevo risposta. Se invoco aiuto, non mi si fa giustizia. Mi ha sbarrato la strada perché non possa passare. Sui miei sentieri ha sparso le tenebre. Mi ha spogliato del mio onore, mi ha tolto il diadema dal capo. Mi demolisce da ogni parte e devo andarmene. Sradica come un albero la mia speranza. La sua ira si è infiammata contro di me e mi considera come un avversario. Giungono in massa le sue schiere, si spianano un accesso contro di me e pongono l'assedio intorno alla mia tenda. I miei fratelli si sono allontanati da me e i miei conoscenti mi si sono fatti estranei. Scomparsi sono i miei parenti e familiari. mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Le mie ancelle mi trattano come un estraneo, sono un forestiero ai loro occhi. Chiamo il mio servo ed egli non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna a mia moglie. Sono diventato fetido per i figli di mia madre. Anche i monelli mi disprezzano, mi insultano se provo ad alzarmi. Mi hanno in orrore tutti i miei confidenti e quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie ossa si attaccano alla pelle e alla carne e sono rimasto solo con la pelle dei miei denti. Pietà di me. Pietà di me, amici miei, perché la mano di Dio mi ha colpito. Perché mi perseguitate come fa Dio? E non siete mai sazi della mia carne? Ah, se si scrivessero le mie parole, se si fissassero in un libro, con stilo di ferro e di piombo fossero scolpite per sempre sul sasso. Io so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, già senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Le mie viscere si disfanno dentro di me. Se dite come lo perseguiteremo e quale pretesto di processo troveremo in lui, temete per voi la spada, perché questi sono delitti di spada, e saprete che esiste un giudizio. Allora Zofar di Naama prese la parola e disse: per questo le mie riflessioni mi spingono a rispondere a causa dell'agitazione che sento in me. Ho ascoltato una lezione umiliante, ma l'ispirazione del mio senno mi fa replicare. Non sai tu che da sempre, da quando l'uomo fu posto sulla terra, il giubilo dei malvagi è effimero e la gioia degli empi dura un istante? Anche se la sua ambizione sale fino al cielo e il suo capo tocca le nubi, perirà per sempre come il suo escremento, e chi l'ha visto dirà: dov'è? Svanisce come un sogno e più non si trova, si dilegua come una visione notturna. L'occhio che lo vedeva non lo scorge più. Anche la sua dimora l'ha perduto di vista. I suoi figli dovranno indennizzare i poveri e le loro mani restituiranno le sue ricchezze. Le sue ossa, ancor piene di vigore, con lui giacciono nella polvere. Se fu dolce il male alla sua bocca, se lo nascondeva sotto la lingua, se lo assapora senza inghiottirlo, ritenendolo contro il palato, il suo cibo si altera nelle sue viscere, divenendo un veleno di vipera dentro di lui. I beni che aveva divorato li rivomita. Dio glieli caccia fuori dal ventre. Succhiò veleno di aspide. Una lingua di vipera lo uccide. Non vedrà più ruscelli d'olio, torrenti di miele e fior di latte. Restituisce il frutto della fatica senza averne goduto e di ciò che guadagnò commerciando non si rallegra, perché ha oppresso e lasciato in miseria i poveri e si appropriò di case che non costruì, perché il suo ventre non ha saputo accontentarsi, non poteva sottrarsi al suo appetito. Niente sfuggiva alla sua voracità, perciò il suo benessere non è stabile. nel colmo dell'abbondanza, si troverà in strettezze. Tutti i colpi della sventura piomberanno su di lui. Quando starà per riempire il suo ventre, Dio scatenerà contro di lui l'ardore della sua ira e gli farà piovere addosso brace. Se sfugge all'arma del ferro, lo trafiggerà l'arma di bronzo. Estrae la freccia che esce dal suo corpo e quando la punta abbandona il fegato, i terrori irrompono su di lui. Tutte le tenebre sono a lui riservate. Lo divora un fuoco non acceso da uomo. Esso consuma quanto è rimasto nella tenda. Il cielo rivela la sua iniquità e contro di lui si solleva la terra. Un'alluvione travolge la sua casa, acque tumultuose nel giorno della sua ira. Questa è la sorte che Dio riserva all'uomo malvagio, la parte di eredità aggiudicatagli da Dio. Giobbe prese la parola e disse: ascoltate attentamente le mie parole e sia questo almeno il conforto che mi date. Abbiate pazienza mentre parlo e quando avrò parlato deridetemi pure. Mi lamento forse di un uomo? E dunque non ho motivo di impazientirmi? Volgetevi a me e stupite. Portatevi la mano alla bocca. Quando ci penso rimango scosso e la mia carne è presa da un brivido. Perché vivono felici i malvagi ed invecchiati accrescono il loro potere? La loro prole si afferma in loro compagnia e vedono crescere i loro rampolli. Le loro case sono sicure, senza pericoli, e la verga di Dio non pesa su di loro. Il loro toro feconda e non falla. La loro vacca figlia e non abortisce. Mandano fuori i loro ragazzi come un gregge ed i loro figli si danno alla danza. Cantano al suono di timpani e di cetre e si divertono al suono del flauto. Finiscono i loro giorni nel benessere e scendono tranquilli nello Sheol. Eppure dicevano a Dio: allontanati da noi, perché non vogliamo saperne delle tue vie. Chi è l'Onnipotente? Perché dobbiamo servirlo? Che cosa ci giova pregarlo? Il benessere non è forse nelle loro mani? Il consiglio degli empi è lontano da lui. Quante volte si spegne la lampada dei malvagi e su di essi si abbatte la disgrazia, o l'ira di Dio assegna loro sofferenze e sono come paglia davanti al vento e come pula in balia della bufera. Riserva Dio il castigo per i suoi figli? Lo faccia pagare a lui stesso, perché impari. Che con i suoi occhi veda la sua rovina e beva la collera dell'Onnipotente. Che cosa gli importa della sua casa dopo la morte, quando è compiuto il numero dei suoi mesi? Si può forse dare lezioni a Dio? È lui che giudica gli esseri superiori. Uno muore in pieno vigore, del tutto tranquillo e pacifico. I suoi fianchi sono coperti di grasso e il midollo delle sue ossa è ancora fresco. L'altro muore pieno di amarezza, senza aver goduto la felicità. I due giacciono insieme nella polvere, ricoperti di vermi. Sì, conosco i vostri pensieri e le perfidie che ordite contro di me. Infatti voi dite: dov'è la casa del nobile e dov'è la tenda, dimora dei malvagi? Perché non lo chiedete ai viandanti e non credete alle loro attestazioni? Nel giorno della sventura il malvagio è preservato. Nel giorno dell'ira è messo in salvo, chi gli rinfaccia la sua condotta e di quel che ha fatto chi lo ripaga? Quando sarà condotto al cimitero, si veglia sul suo tumulo. Gli sono dolci le zolle del sepolcro, dietro di lui s'avanza tutta la gente e davanti a lui una folla senza numero. Perché dunque perdervi in consolazioni? Delle vostre risposte non rimane che inganno. Allora Elifaz di Teman prese la parola e disse: può forse un uomo essere utile a Dio mentre il saggio giova solo a se stesso? Che interesse ha l'Onnipotente che tu abbia ragione? O che cosa ci guadagna se la tua condotta è perfetta? È forse a motivo della tua pietà che ti riprende e ti convoca in giudizio? Non è piuttosto per la tua grande malvagità e per le tue innumerevoli colpe? Senza motivo, infatti, prendevi i pegni dei tuoi fratelli e strappavi le vesti agli ignudi. Non davi da bere all'assetato e rifiutavi il pane all'affamato. Ai prepotenti cedevi la terra e vi si installavano i tuoi favoriti. Le vedove le rimandavi a mani vuote e spezzavi le braccia degli orfani. Perciò ti circondano i lacci e sei turbato da un repentino spavento, oppure un'oscurità non ti fa vedere ed una piena d'acqua ti sommerge. Non è forse Dio nell'alto dei cieli? Guarda il vertice delle stelle, come sono alte, e tu dici: che cosa ne sa Dio? Può forse giudicare dietro le nubi? Le nubi gli fanno velo e non vede mentre cammina sulla volta dei cieli. Vuoi tu seguire la via antica già battuta da uomini perversi che furono spazzati via prima del tempo quando un fiume travolse le loro fondamenta? Dicevano a Dio: allontanati da noi, che cosa ci può fare l'Onnipotente? Eppure egli aveva colmato di beni le loro case, ma essi lo escludevano dai loro piani perversi. I giusti vedono ciò e si rallegrano, l'innocente si beffa di loro. Sì, certo, è stata annientata la loro fortuna e il fuoco ne ha divorato gli avanzi. Orsù, riconciliati con lui e fa la pace, così riavrai la felicità. Accetta dalla sua bocca l'istruzione e imprimiti nel cuore le sue parole. Se ritorni all'Onnipotente sarai ristabilito. Allontana l'ingiustizia dalla tua dimora. Considera l'oro come polvere, il metallo di Ofir come i sassi del torrente. Allora sarà l'Onnipotente il tuo oro e argento brillante per te. Allora sì, troverai delizia nell'Onnipotente e verso Dio leverai la faccia. Quando lo supplicherai, egli ti esaudirà e adempirai i tuoi voti. Se deciderai una cosa, ti riuscirà e la luce brillerà sul tuo cammino. Poiché egli umilia l'alterigia del superbo e salva coloro che si umiliano. Egli libera l'innocente e tu sarai liberato per la purezza delle tue mani. Allora Giobbe prese la parola e disse: anche oggi il mio lamento è una ribellione. La sua mano pesa sui miei gemiti. Oh, potessi sapere dove trovarlo ed arrivare fino alla sua sede. Esporrei davanti a lui la mia causa, riempirei la mia bocca di argomenti, saprei con quale parole mi risponde e capirei quello che mi dice. contenderebbe egli con me con grande forza? No, non avrebbe che da ascoltarmi. Allora sarebbe un uomo giusto a discutere con lui, ed io guadagnerei definitivamente la mia causa. Ecco, se mi dirigo verso Oriente, egli non c'è. Verso Ponente, e non lo distingo. Lo cerco a sinistra e non lo scorgo. Mi volgo a destra, non lo vedo. Pertanto egli conosce il mio cammino. Se mi esamina, ne esco puro come oro. Il mio piede ha seguito le sue orme. Mi sono attenuto al suo cammino senza deviare. Non mi sono scostato dai suoi comandi. Nel cuore ho riposto i detti della sua bocca. Ma se egli ha deciso, chi lo farà cambiare? Se una cosa gli piace, la realizza. Così egli compie il mio destino e di simili piani ne ha molti. Perciò sono atterrito al suo cospetto. Se ci penso, provo spavento. Dio fa smarrire il mio cuore e l'Onnipotente mi atterrisce. No, non è a causa delle tenebre che sono abbattuto, anche se le tenebre mi coprono il volto. Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono quei giorni? I malvagi spostano i confini, rubano le greggi e le guidano al pascolo. Portano via l'asino degli orfani e prendono in pegno il bue della vedova. Spingono i poveri fuori strada. Tutti i miseri del paese sono costretti a nascondersi. Eccoli, simili agli onagri del deserto, escono al lavoro. Di buon mattino vanno in cerca di nutrimento. La steppa offre loro cibo per i figli. Mietono nel campo che non è loro e racimolano la vigna del malvagio. Passano la notte nudi, non avendo di che vestirsi. Non hanno da coprirsi contro il freddo. Inzuppati dall'acqua dei monti, per mancanza di riparo, si stringono contro le rocce. Spogliano fin dal seno materno gli orfani. Prendono in pegno ciò che copre il povero. Se ne vanno nudi, senza vesti, ed affamati portano i covoni. Tra le due mole spremono l'olio, pigiano l'uva ed hanno sete. Dalla città sale il gemito dei moribondi ed i feriti chiedono aiuto, ma Dio non presta attenzione alla preghiera. Altri si ribellano alla luce, non ne conoscono le vie, non ne frequentano i sentieri. Avanti il giorno si leva l'assassino per uccidere il povero e l'indigente. Nella notte si aggira come un ladro, mettendosi un velo sulla faccia. L'occhio dell'adultero spia il crepuscolo pensando: nessun occhio mi osserva. Nelle tenebre irrompono nelle case. Di giorno se ne stanno nascosti, non vogliono saperne della luce. Certo, per tutti costoro l'alba è oscura. Quando si fa giorno, provano i terrori delle tenebre. Fuggono veloci sulla superficie dell'acqua. Maledetta è la loro porzione di campo sulla terra. Non prendono più il cammino della loro vigna. Come la siccità ed il calore assorbono l'acqua delle nevi, così fa lo Sheol con il peccatore. Lo dimentica il seno materno, lo degustano i vermi, non se ne conserva la memoria, è troncata come un albero l'iniquità. Perché maltrattava la sterile senza figli e non soccorreva la vedova. ma con la sua forza trascinava i potenti, e quando disperava di vivere si alzava sano. Dio lo lasciava confidente e sicuro, però i suoi occhi osservavano il suo cammino. Esaltato per breve tempo, cessa di esistere. Furono abbattuti e marciscono come tutti. Furono falciati come la testa della spiga. Non è forse così? Chi può smentirmi e ridurre a nulla le mie parole? Bildad di Suk parlò a sua volta e disse: Egli possiede dominio e forza spaventosa e stabilisce la pace nelle sue alture. Si possono forse contare le sue schiere? E sopra chi non sorge la sua luce? Come può dunque l'uomo essere giusto di fronte a Dio ed apparire puro il nato da donna? Se neppure la luna brilla e le stelle non sono pure davanti ai suoi occhi, quanto meno l'uomo, questo verme, l'essere umano, questo bruco. Allora Giobbe prese la parola e disse: Quanto aiuto hai prestato al debole, e come hai soccorso il braccio senza vigore. Come hai consigliato l'ignorante e quanta sagacità hai dimostrato. A chi hai rivolto le tue parole e da chi viene l'ispirazione che emana da te? I morti tremano sottoterra, come pure le acque ed i loro abitanti. Lo Sheol è scoperto davanti a lui ed il regno della morte non ha velo. Egli distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla. Rinchiude le acque nelle nubi senza che queste si squarcino sotto il peso. Copre la vista del suo trono stendendo su di esso la sua nube. Traccia un cerchio sulla superficie delle acque fino al confine tra la luce e le tenebre. Le colonne del cielo si scuotono e fremono alla sua minaccia. Con la sua forza sconvolge il mare, con la sua intelligenza sfracella Raab. Al suo soffio i cieli si rasserenano. La sua mano trafigge il serpente tortuoso. Ecco, queste non sono che le frange delle sue opere. Quanto lieve è il sussurro che noi percepiamo. Chi potrà comprendere il tuono della sua potenza? Allora Giobbe continuò a pronunciare i suoi versi e disse: Viva Dio che mi nega il mio diritto, l'Onnipotente che mi amareggia l'animo. Finché ci sarà in me un soffio di vita e l'alito di Dio nelle mie narici, mai le mie labbra diranno falsità, né la mia lingua proferirà menzogna. Lungi da me che io vi dia ragione. Fino all'ultimo respiro rivendicherò la mia integrità. Terrò fermo alla mia innocenza senza cedere. La mia coscienza non mi rimprovera uno solo dei miei giorni. Che il mio nemico abbia la sorte dell'iniquo ed il mio rivale quella dell'ingiusto. Quale infatti è la speranza dell'empio quando finirà, quando Dio gli toglierà la vita? Ascolterà forse Dio il suo grido quando lo colpirà la sventura? Sarà forse l'Onnipotente la sua delizia? Invocherà Dio ad ogni istante? vi mostrerò il potere di Dio. Non vi nasconderò ciò che dispone l'Onnipotente. Ecco, voi tutti l'avete constatato. Perché dunque vi perdete in cose vane? Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio e la porzione che i violenti ricevono dall'Onnipotente. Se ha molti figli, saranno per la spada, ed i suoi discendenti non avranno pane per sfamarsi. I superstiti li seppellirà la peste, senza che le sue vedove facciano il lamento. Se ammassa l'argento come polvere e fa provvista di vesti come fango, egli le prepara, ma il giusto le indosserà, e l'argento lo erediterà l'innocente. Se costruisce la casa, sarà come ragnatela, come una capanna fatta da un guardiano. Si corica ricco, ma è per l'ultima volta. Quando apre gli occhi, non avrà più nulla. I terrori lo assalgono come acque, di notte un uragano lo travolge, lo scirocco lo solleva e se ne va, lo strappa lontano dal suo posto. Dio lo incalza senza pietà, mentre egli tenta di sfuggire dalla sua mano. Si battono le mani su di lui e si fischia contro di lui da ogni parte. Certo, vi sono miniere per l'argento e per l'oro luoghi dove viene raffinato. Il ferro viene estratto dal suolo e la pietra fusa libera il rame. L'uomo pone un limite alle tenebre e fruga fino all'estremo confine la pietra oscura e buia. Perfora gallerie inaccessibili, dimenticate dai pedoni. Oscilla sospeso, lontano dall'uomo. La terra dalla quale si estrae il pane è sconvolta di sotto come dal fuoco. Le sue pietre sono giacimenti di zaffiri e la sua sabbia contiene dell'oro. L'avvoltoio ne ignora il sentiero e non lo scorge l'occhio del falco. Non è stato battuto dalle bestie feroci né attraversato dai leoni. L'uomo porta la mano contro il selce, sconvolgendo i monti dalla radice. Nelle rocce scava gallerie, portando il suo occhio su tutto ciò che è prezioso. Scandaglia le sorgenti dei fiumi e porta alla luce ciò che è nascosto. Ma la sapienza, da dove si estrae? Dov'è il giacimento della prudenza? L'uomo non ne conosce il prezzo e non si trova nella terra dei viventi. L'oceano dice: non è con me. E il mare risponde: neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore, né si pesa l'argento per comperarla. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'oro pregiato e con lo zaffiro. Non la pareggia l'oro e il cristallo, né si scambia con vasi di oro puro. Coralli e perle non meritano menzione. Il possesso della sapienza è migliore delle perle. Non la eguaglia il topazio di Etiopia. Non si può scambiare appeso con l'oro puro. Ma la sapienza, donde viene? E dov'è il giacimento della prudenza? Essa è nascosta agli occhi di ogni vivente ed è occulta agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte confessano: coi nostri orecchi ne udimmo la fama. Dio solo ne conosce la via ed egli solo sa dove si trovi. Perché egli volge lo sguardo fino ai confini della terra e vede tutto ciò che sta sotto il cielo. quando determinò il peso del vento e definì la misura delle acque, quando impose una legge alla pioggia ed una via al lampo dei tuoni, allora la vide e la calcolò, la scrutò e la stabilì, dicendo all'uomo: ecco, temere Dio, questo è sapienza, e schivare il male, questo è prudenza. Giobbe riprese a pronunciare i suoi versi dicendo: chi mi renderà come ai giorni antichi, quando Dio mi proteggeva, quando la sua lucerna brillava sopra il mio capo e dalla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre? Com'ero ai giorni del mio autunno, quando l'amicizia di Dio riposava sulla mia tenda, quando l'Onnipotente era ancora con me ed i miei figli mi stavano intorno. Lavavo i piedi nel latte e la roccia mi versava ruscelli d'olio. Quando uscivo verso la porta della città e disponevo il mio seggio in piazza, i giovani, vedendomi, si tiravano in disparte. Gli anziani si alzavano rimanendo in piedi. I notabili si astenevano dal parlare e si ponevano la mano alla bocca. La voce dei capi si smorzava e la loro lingua si incollava al palato. L'orecchio che mi ascoltava mi proclamava felice e l'occhio che mi vedeva mi rendeva testimonianza. Giacché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto e l'orfano che nessuno assisteva. La benedizione del morente scendeva su di me e rendevo la gioia al cuore della vedova. Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento. La mia equità era come mantello e turbante. Ero occhi per il cieco e piedi per lo zoppo. Ero padre per i poveri ed esaminavo la causa dello sconosciuto. Spezzavo le mascelle dell'iniquo e dai suoi denti strappavo la preda e pensavo: spirerò nel mio nido, aumenterò i miei anni come la sabbia, la mia radice avrà adito alle acque e la rugiada cadrà di notte sul mio ramo. Il mio prestigio sarà sempre nuovo ed il mio arco si rinforzerà nella mia mano. Mi ascoltavano in fiduciosa attesa e tacevano per udire il mio consiglio. Dopo che avevo parlato, non replicavano. Su di loro cadevano goccia a goccia i miei detti. Li attendevano come si aspetta la pioggia e li bevevano come acqua di primavera. Se scherzavo, non credevano e non lasciavano cadere nemmeno un gesto del mio favore. Seduto come capo, fissavo loro la via e vi rimanevo come un re fra le sue schiere. Dove li guidavo, si lasciavano condurre. Ora, invece, si fanno beffe di me i più giovani di me in età, i cui padri avrei rifiutato di lasciare tra i cani del mio gregge. Del resto, a che cosa mi sarebbe servita la forza delle loro mani? In esse è spento ogni vigore. Disfatti per la miseria e la fame, andavano brucando l'arido deserto, lugubre e vasta solitudine. Raccoglievano l'erba salsa accanto ai cespugli, alimentandosi delle radici di ginestra. Cacciati via dal consorzio umano, si urlava dietro a loro come a ladri. Abitavano nei dirupi delle valli, nelle caverne del suolo e nelle rocce. Gridavano fra gli arbusti, accalcandosi sotto i roveti. razza di stolti e gente senza nome, cacciati dal paese. Ora sono diventato io la loro canzone, sono il tema delle loro burle. Mi aborriscono, si distanziano da me, non hanno risparmiato gli sputi al mio volto. Dio ha sciolto la corda del mio arco e mi ha umiliato, rompendo ogni freno davanti a me. Alla mia destra insorge la canaglia. Smuovono i miei passi e preparano il cammino al mio sterminio. Demoliscono il mio sentiero, cospirando per la mia disfatta, senza che nessuno si opponga loro. Irrompono per una vasta breccia, strisciano in mezzo alle macerie, mi piombano addosso gli spaventi, si dissipa come il vento la mia dignità, si dilegua come nube la mia felicità. Ora io mi struggo nell'intimo, mi opprimono giorni di tristezza. Di notte mi si slogano le ossa e i dolori che mi rodono non hanno tregua. A gran forza mi afferra per la veste, mi stringe il collo della tunica. Mi getta nel fango e mi confondo con la polvere e la cenere. Io grido a te e tu non rispondi. Mi presento e tu non badi a me. Ti sei fatto crudele con me e mi perseguiti con tutta la forza del tuo braccio. Mi sollevi e mi poni a cavallo del vento, mi fai travolgere dalla bufera. So bene che mi conduci alla morte, dove convengono tutti i viventi. Pertanto io non portavo la mano contro il povero, se nella sua sventura gridava verso di me. Non ho io forse pianto con l'oppresso? Non ho avuto compassione del povero? Mi aspettavo la felicità e venne la sventura. Aspettavo la luce e venne il buio. Le mie viscere ribollono senza posa e giorni di affanno mi sono venuti incontro. Cammino triste, senza conforto. Mi alzo nell'assemblea per invocare aiuto. Sono diventato fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi. La mia pelle annerita mi si stacca e le mie ossa bruciano per la febbre. La mia cetra serve per lamenti ed il mio flauto per la voce di chi piange. Strinsi un patto con i miei occhi di non fissare lo sguardo sulle ragazze. Qual è la sorte che Dio ha assegnato dall'alto e l'eredità che l'Onnipotente ha preparato dai luoghi eccelsi? Non è forse la sciagura per il perverso e la sventura per chi compie il male? Non vede egli la mia condotta e non conta tutti i miei passi? Ho forse agito con falsità o il mio piede si è affrettato verso la frode? Mi pesi pure sulla bilancia della giustizia e riconosca, Dio, la mia integrità. Se il mio passo ha errato fuori strada ed il mio cuore ha seguito i miei occhi o una sozzura si è attaccata alle mie mani, un altro mangi ciò che io semino e siano sradicati i miei germogli. Se il mio cuore fu sedotto da una donna ed ho spiato alla porta del mio prossimo, mia moglie macini per un altro ed altri si accostino ad essa. In verità, questa è un'infamia, un delitto da deferire ai giudici. Quello è un fuoco che divora fino alla distruzione ed avrebbe consumato tutto il mio raccolto. Se ho negato il diritto del mio schiavo e della mia schiava quando erano in lite con me, che cosa farei quando Dio si ergerà giudice? Che cosa risponderei quando mi interrogherà? Chi ha fatto me nel seno materno non ha fatto anche lui? Non fu lo stesso a formarci nel seno? Ho forse negato ai poveri quanto desideravano, o ho lasciato languire gli occhi della vedova? Ho forse mangiato da solo il mio tozzo di pane, senza spartirlo con l'orfano? Già che fin dalla mia giovinezza mi ha curato come padre e mi ha guidato fin dal grembo di mia madre. Semmai ho visto un misero privo di vesti ed un indigente senza abito, non mi hanno forse benedetto i suoi fianchi e non si è forse riscaldato con la lana dei miei agnelli? Se ho alzato la mano contro l'orfano, sapendomi appoggiato al tribunale, mi si stacchi la spalla dalla nuca ed il mio braccio si spezzi dal gomito, perché mi atterra la disgrazia che Dio invia, non reggerei davanti alla sua maestà. Ho forse riposto la mia fiducia nell'oro e detto a loro fino: tu sei la mia sicurezza? Mi sono forse compiaciuto dell'abbondanza dei miei beni e perché la mia mano aveva accumulato la ricchezza? Quando vedevo risplendere il sole e la luna che avanzava maestosa, si lasciò forse sedurre segretamente il mio cuore, mandando un bacio con la mano alla bocca? Anche questo è un delitto per i giudici, perché avrei rinnegato Dio che sta in alto. Mi sono forse rallegrato della disgrazia del mio nemico ed ho esultato perché lo colpì la sventura? Non ho neppure permesso alla mia bocca di peccare, augurandogli la sua morte con un'imprecazione. Non diceva forse la gente della mia tenda: chi non si è sfamato della sua mensa? Il forestiero non passava la notte all'aperto, io aprivo le porte al pellegrino. Ho forse occultato come un uomo i miei peccati, tenendo celato il mio delitto dentro di me, per timore dell'opinione delle folle, come se il disprezzo della famiglia mi spaventasse, sì da starmene zitto senza uscir di casa? Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco la mia firma. L'Onnipotente mi risponda. Il mio rivale scriva il suo rotolo. Lo porterei sulle mie spalle e me lo cingerei come un diadema. Gli darei resoconto di tutta la mia condotta. Mi presenterei a lui come un principe. Se la mia terra ha gridato contro di me ed i suoi solchi hanno pianto con essa, se ho mangiato i suoi frutti senza pagamento, facendo esalare l'ultimo respiro ai suoi coltivatori, le spine crescano invece del frumento e le ortiche al posto dell'orzo. Allora quei tre personaggi cessarono di replicare a Giobbe, perché egli si riteneva giusto. Ma Eliu, figlio di Barachele, il Buzita, del clan di Ram, si mise in collera contro Giobbe. Il suo sdegno si accese perché questi pretendeva di aver ragione contro Dio. Si mise in collera anche contro i suoi tre amici, perché non avendo dato risposta avevano riconosciuto Dio colpevole. Ora Eliu aveva atteso mentre essi parlavano con Giobbe, perché essi erano più anziani di lui. Però quando Eliu vide che non c'era più risposta sulla bocca di questi tre uomini, si mise in collera. Prese quindi la parola Eliu, figlio di Barachele, il Buzita, e disse: «Io sono ancor giovane e voi anziani. Per questo ho esitato e temuto di esporvi la mia opinione. Pensavo, parleranno gli anni e l'età avanzata insegnerà la sapienza. Però nell'uomo c'è uno spirito, il soffio dell'Onnipotente che rende intelligente. Non sono i molti anni a dare la sapienza, né per essere anziano uno sa giudicare. Perciò oso dire, ascoltatemi, esporrò anch'io la mia opinione. Ecco, contavo sui vostri discorsi. Ho prestato attenzione ai vostri argomenti finché ricercavate delle risposte. Per quanto ascoltassi con attenzione, nessuno di voi fu capace di criticare Giobbe, di rispondere alle sue parole. Non dite dunque, noi abbiamo trovato la sapienza, solo Dio la può confutare, non un uomo. Giobbe non ha rivolto a me le sue parole, e non risponderò con i vostri ragionamenti. Essi, sconcertati, non rispondono più, mancano loro le parole. Debbo ancora attendere, dato che non parlano, giacché stanno lì senza rispondere? Replicherò anch'io per la mia parte, esporrò anch'io ciò che so, perché sono pieno di cose da dire, mi preme lo spirito che è dentro di me. Ecco, dentro di me c'è come un vino che non ha sfogo, come degli otri nuovi che scoppiano. Parlerò dunque, e ne avrò sollievo, aprirò la bocca e risponderò. Non guarderò in faccia a nessuno, non adulerò nessuno, perché non so adulare, altrimenti il mio creatore in breve mi eliminerebbe. Ascolta dunque, Giobbe, le mie parole. Presta orecchio a tutti i miei detti. Ecco, apro la mia bocca. Parla la mia lingua entro il mio palato. Parlo con cuore sincero. Le mie labbra diranno la pura verità. Lo Spirito di Dio mi ha fatto, ed il soffio dell'Onnipotente mi ha dato la vita. Se puoi, rispondimi. Preparati pure a resistermi. Ecco, io sono tuo eguale davanti a Dio. Anch'io sono stato tratto dal fango. Così non avrai timore di me, né graverà su di te la mia autorità. Tu hai ben detto alle mie orecchie, ed ho udito il suono delle tue parole. Puro sono io, senza peccato, sono innocente, non ho colpa. Eppure Dio trova pretesti contro di me e mi considera come suo nemico. Pone in ceppi i miei piedi e scruta tutti i miei passi. Ebbene, in questo non hai ragione, io ti rispondo, perché Dio è più grande dell'uomo. Perché gli hai intentato un processo, dato che non risponde ad ogni tua parola? Dio sa parlare in un modo o in un altro, e nessuno fa attenzione. Nel sogno, in una visione notturna, quando il torpore piomba sugli uomini addormentati nel loro giaciglio, allora egli apre l'orecchio degli uomini e vi sigilla gli avvertimenti che rivolge loro, per distogliere l'uomo dalle sue cattive azioni e preservare il mortale dall'orgoglio, per impedirgli di cadere nella fossa e di passare il canale. Lo corregge pure sul suo letto con il dolore e con l'incessante tortura delle sue ossa, quando ha nausea del cibo e gli ripugna la vivanda delicata, quando la sua carne si consuma a vista d'occhio e le ossa, che non si vedevano prima, spuntano fuori. Allora la sua esistenza si avvicina alla fossa e la sua vita agli sterminatori. Se c'è con lui un angelo, un solo intercessore tra mille per annunciare all'uomo il suo dovere, che abbia compassione di lui e dica: preservalo dallo scendere nella fossa, ho trovato per lui il riscatto. Allora la sua carne sarà più florida che in gioventù, tornerà ai giorni della sua adolescenza, invocherà Dio che gli sarà propizio, gridando di gioia vedrà la sua faccia, canterà agli uomini la propria salvezza. Rivolgendosi agli uomini dirà: ho peccato e violato la giustizia, ma Dio non si è comportato con me come meritavo. Mi ha scampato dalla fossa e la mia vita contempla la luce. Ecco, Dio fa tutto questo due volte, tre volte con l'uomo, per sottrarlo vivo dalla fossa ed illuminarlo con la luce dei viventi. Giobbe, sta attento, ascoltami, sta in silenzio ed io parlerò. Se hai qualcosa da dire, rispondimi, parla, perché vorrei darti ragione. Se non ne hai, ascoltami, taci, ed io ti insegnerò la sapienza. Eliu seguitò dicendo: ascoltate, o saggi, le mie parole, e voi, dotti, prestatemi l'orecchio, poiché l'orecchio valuta i discorsi come il palato assaggia il cibo. Esaminiamo tra noi la questione, indaghiamo tra noi ciò che è bene. Ora Giobbe ha affermato: sono innocente, ma Dio mi nega giustizia. Nonostante la mia ragione, passo per bugiardo. Una freccia mi ha colpito a morte, benché non abbia peccato. Chi è come Giobbe, che beve il sarcasmo come acqua, si associa ai malfattori e va in compagnia degli iniqui? Infatti ha affermato: l'uomo non guadagna nulla nel cercare il gradimento di Dio. Perciò, uomini di senno, ascoltatemi. Lungi da Dio il fare il male e dall'Onnipotente la perfidia. Invece, egli rende all'uomo secondo le sue opere e tratta ciascuno secondo la sua condotta. No, in verità Dio non fa il male e l'Onnipotente non viola il diritto. È forse un altro che gli ha affidato la terra ed un altro che lo ha incaricato del mondo intero? Se egli non pensasse che a se stesso e ritirasse a sé il suo spirito ed il suo respiro, morirebbe all'istante ogni creatura e l'uomo ritornerebbe in polvere. Se sei intelligente, ascolta questo, presta orecchio al suono delle mie parole. Un nemico della giustizia potrebbe forse governare? Osi tu condannare il sommo giusto? Si dice forse ad un re iniquo e dai grandi malvagi? Egli non è parziale in favore dei principi e non preferisce il ricco al povero, perché tutti sono opera delle sue mani. In un istante essi muoiono nel cuore della notte. Il popolo si agita ed essi spariscono. Si rimuove il tiranno senza sforzo. Perché Dio ha gli occhi sulla condotta dell'uomo ed osserva tutti i suoi passi. Non vi sono tenebre né oscurità dove si possano nascondere i malfattori. Poiché non si pone all'uomo un termine perché comparisca in giudizio davanti a Dio. Senza fare inchiesta, egli fiacca i potenti e mette altri al loro posto, poiché egli sventa le loro manovre. In una notte li travolge e sono schiacciati. Come malvagi li colpisce alla vista di tutti. Giacché si sono allontanati da lui, senza curarsi delle sue vie, fino a far giungere verso di lui il grido dei poveri, ed egli udì il lamento degli oppressi. Ma se resta impassibile, chi lo condannerà? Se nasconde la sua faccia, chi potrà vederlo? Egli pertanto veglia sui popoli come sui singoli, non volendo che l'empio regni e che si pongano inciampi al popolo. Si può dunque dire a Dio: porto la pena senza aver fatto il male? Ciò che sfugge alla mia vista, mostramelo tu. Se ho commesso il male, non lo farò più. Dovrebbe egli retribuire secondo le tue norme, dato che tu rifiuti il suo giudizio? Poiché tu devi scegliere e non io, di quanto sai. Gli uomini di senno mi diranno, come ogni saggio che mi ascolta: Giobbe non parla con conoscenza di causa, le sue parole sono prive di senno. Sia dunque Giobbe esaminato a fondo per le sue risposte degne di un malvagio, poiché ha aggiunto la ribellione al peccato, si burla di noi e moltiplica contro Dio le sue parole. Eliu proseguì dicendo: ti sembra giusto ciò che dici, ho ragione davanti a Dio? Poiché dichiari, che te ne importa? Che profitto ne ho dall'essere senza peccato? Risponderò a te con discorsi e dai tuoi amici insieme con te. Contempla il cielo ed osserva. Considera le nubi che sono più alte di te. Se pecchi, che torto gli fai? Se moltiplichi i tuoi delitti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai? Riceve forse qualcosa da te? La tua malizia ricade su un uomo come te, su un figlio d'uomo la tua giustizia. Si geme sotto gli accessi dell'oppressione, si invoca aiuto sotto il braccio dei potenti, però nessuno dice: dov'è Dio che ci ha fatto, che nella notte ci concede la forza, che ci rende più sapienti delle bestie selvatiche e più intelligenti degli uccelli del cielo? Allora si grida, ma Dio non risponde a causa dell'arroganza dei malvagi. Già che Dio non ascolta la falsità e l'Onnipotente non vi bada. Ora tu osi dire che non lo vedi, che la tua causa sta dinanzi a Lui e tu stai ad attendere. Ma ora, se la sua collera non interviene e se ignora l'iniquità, Giobbe apre a vuoto la sua bocca e moltiplica discorsi senza senno. Eliu proseguì dicendo: aspetta un poco e ti istruirò, perché ci sono altre cose da dire in difesa di Dio. Attingerò la mia scienza da lontano per rendere giustizia a colui che mi ha creato. Certo, le mie parole non sono menzogniere. Un sapiente consumato parla con te. Ecco, Dio è grande e non si ritrae. È potente per la fermezza delle sue decisioni. Non lascia vivere il malvagio e rende giustizia ai poveri. Non distoglie dai giusti i suoi occhi, li fa sedere sul trono insieme ai re e li esalta per sempre. Ma se vengono legati in catene e sono stretti con corde di afflizione, fa loro conoscere le opere loro e le loro infedeltà, perché insuperbirono. Apre loro gli orecchi per la correzione e li esorta ad allontanarsi dal male. Se ascoltano e si sottomettono, finiranno i loro giorni nel benessere ed i loro anni nelle delizie. Ma se non ascoltano, periranno di spada. Spireranno senza rendersene conto. I perversi di cuore accumulano ira, non invocano aiuto quando Dio li avvince in catene. Perdono la vita in piena gioventù e la loro esistenza tra gli ieroduli. Ma egli salva il povero mediante l'afflizione e gli schiude l'udito mediante la sofferenza. Anche te intende sottrarre dal morso dell'angustia. Avrai in cambio un luogo ampio ed aperto, e la tavola che ti sarà servita sarà colma di vivande grasse. Ma se tu incorri in un verdetto di condanna, verdetto e giudizio vinceranno. La collera non ti trascini all'imprudenza, non ti seduca l'abbondanza del riscatto. Varrà forse davanti a lui la tua implorazione nell'angustia o tutte le risorse della tua forza? Non sospirare a quella notte, quando i popoli vanno al loro luogo. Bada di non volgerti all'iniquità, perché per questo sei stato provato dall'afflizione. Ecco, Dio è sublime nella sua potenza. Quale maestro lo può uguagliare? Chi può indicargli il cammino e chi può dirgli: hai commesso ingiustizia? Ricordati di celebrare la sua opera, che altri uomini hanno cantato. Tutti gli uomini la ammirano, i mortali la contemplano da lontano. Sì, Dio è grande, anche se non lo riconosciamo. Il numero dei suoi anni è incalcolabile. Egli attira le gocce d'acqua che si condensano in vapore per la pioggia, che le nubi riverseranno, grondando sugli uomini in gran quantità. Chi può calcolare l'estensione delle nubi, l'alta posizione della sua tenda? Ecco, come si spande la sua luce, con essa ricopre la profondità del mare. In tal modo sostenta i popoli e dà loro il cibo in abbondanza. Arma le mani di folgori e le scaglia contro il bersaglio. Il suo tuono lo annuncia, attira l'ira contro l'iniquità. Per questo trepida il mio cuore e mi balza fuori dal petto. Attenzione, udite il fragore della sua voce e lo strepito che sale dalla sua bocca. Egli lascia vagare sotto tutto il cielo il suo lampo, che giunge fino all'estremità della terra. Dietro di esso muggisce il tuono e rimbomba con voce profonda. Nulla trattiene i lampi quando si è udita la sua voce. Dio tuona con voce maestosa e realizza prodezze che non comprendiamo. Dice infatti alla neve: cadi sulla terra, e alle piogge dirotte: siate violente. Sulla mano di ognuno pone un sigillo perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere rientrano nelle loro tane, si accovacciano nei loro nascondigli. Dal meridione prorompe la tempesta e dal settentrione il freddo. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa delle acque si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. Egli le fa vagare dappertutto secondo i suoi consigli, perché compiano quanto comanda loro su tutto l'universo. Le manda o per castigo della terra o in segno di bontà. Presta l'orecchio a questo, Giobbe, soffermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio allinea le nubi e come esse producono il lampo? Sai tu come la nube si libri nell'aria, meraviglia della consumata sapienza? Tu che hai le vesti calde, quando la terra langue per lo scirocco? Hai tu forse disteso con lui il firmamento duro come lo specchio di metallo fuso? Facci sapere cosa dovremmo dirgli. Noi non abbiamo parola a causa delle tenebre. Si dovrà informarlo di ciò che dico? C'è qualcuno che desidera essere annientato? Ed ecco, non si vede più la luce, è oscurata dalle nubi, ma tira il vento e le spazza via. Dal settentrione giungono splendori dorati. Dio si circonda di tremenda maestà. È l'Onnipotente che noi non sappiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine, grande per giustizia. Egli non opprime. Per questo gli uomini lo temono. Ma egli non tiene conto di coloro che si credono sapienti. Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine così: chi è colui che denigra la provvidenza con parole insensate? Cingiti i fianchi come un prode. Ti interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri quando io mettevo le basi della terra? Dillo, se hai tanta sapienza. Chi fissò le sue proporzioni, se lo sai? E chi tracciò per essa la linea? Dove affondano i suoi pilastri? O chi pose la sua pietra angolare mentre le stelle del mattino giubilavano unite e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi racchiuse tra due battenti il mare quando uscì impetuoso dal seno materno quando gli diedi le nubi per vestirsi e la foschia per fasciarsi. Poi gli imposi un limite, fissando catenacci e porte, e gli ingiunsi: fin qui arriverai e non oltre. Qui si arresterà la superbia delle tue onde. Hai tu un solo dei tuoi giorni comandato al mattino ed assegnato all'aurora il suo posto, perché afferri la terra ai suoi angoli e ne scuota i malvagi? Allora la terra si trasforma come creta sotto il sigillo e si tinge come un vestito. Allora è negata al malvagio la luce di essa ed è spezzato il braccio altero. Sei mai giunto alle sorgenti del mare? O hai passeggiato sul fondo dell'abisso? Ti sono state indicate le porte della morte ed hai visto i portali dell'ombra funerea? Ti sei reso conto dell'ampiezza della terra? Dillo, se sai tutto questo. Per quale via si va dove abita la luce? E le tenebre, dove hanno dimora? Potresti tu condurle al loro posto, dato che conosci il sentiero delle loro case? Tu lo sai, perché allora eri già nato, ed il numero dei tuoi anni è assai grande. Sei mai entrato nei serbatoi della neve? Hai potuto vedere i depositi della grandine, che io tengo in serbo per il tempo della tribolazione, per il giorno di lotta e di battaglia? Da quale parte si diffonde la luce? Per dove lo scirocco invade la terra? Chi ha scavato il canale per le acque torrenziali ed una strada alla nube tonante per far piovere su una terra disabitata, su un deserto dove non c'è uomo, per saziare regioni desolate e squallide e far germogliare e spuntare l'erba? La pioggia ha forse un padre? Chi genera le gocce di rugiada? Da quale seno è nato il ghiaccio e la brina del cielo? Chi l'ha generata? Le acque si solidificano come pietra e la faccia dell'abisso si raggela. Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu spuntare la costellazione a suo tempo e guidi tu l'orsa con i suoi piccini? Conosci forse le leggi del cielo e determini tu i loro influssi sulla terra? Puoi tu dar ordini alle nubi perché una massa d'acqua ti inondi? Scagli tu i fulmini e partono dicendoti: eccoci? Chi ha concesso all'ibis la sapienza? E chi ha dato al gallo intelligenza? Chi può contare le nubi con esattezza? E chi riversa gli otri del cielo quando la polvere si fonde in una massa e le zolle si attaccano insieme? Vai tu a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncelli quando sono accovacciati nelle tane o stanno in agguato fra le macchie? Chi procaccia il nutrimento al corvo quando i suoi nati gridano verso Dio e si agitano per mancanza di cibo? Conosci tu il tempo in cui partoriscono le camozze? Hai osservato il parto delle cerve? Sai contare i mesi della loro gravidanza e conosci il tempo del loro parto? Si curvano sgravandosi dei loro piccoli, mettendo fine alle loro doglie. I loro piccoli crescono, si sviluppano, corrono all'aperto e non ritornano più. Chi lascia libero l'asino selvatico? Chi ha sciolto i legami dell'onagro, al quale ho assegnato come dimora la steppa e come abitazione la terra salmastra? Egli sprezza il chiasso delle città e non dà ascolto alle grida di chi lo sprona. Gira per le montagne suo pascolo, andando in cerca di qualsiasi verdura. Il bufalo si metterà forse al tuo servizio e passerà la notte presso la tua greppia? Potrai legarlo con la corda perché ari, perché erpichi le valli dietro a te? Ti fiderai di lui perché la sua forza è grande e lascerai a lui le tue fatiche? Conterai su di lui che ritorni e che ti ammassi il grano sull'aia? L'ala dello struzzo batte festante, come se avesse penne e piume di cicogna, quando abbandona al suolo le uova e le lascia riscaldare nella sabbia, dimenticando che un piede le può schiacciare ed una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli come se non fossero suoi e non si preoccupa della sua inutile fatica, perché Dio gli ha negato la sapienza e non gli ha dato in sorte l'intelligenza. Ma appena si leva in alto, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Sei tu che dai al cavallo la bravura e lo rivesti di criniera al collo? Lo fai tu saltare come una locusta? Il suo alto nitrito incute spavento. Scalpita nella valle, giù l'ivo, e con impeto si fa incontro alle armi. Se ne ride della paura e non trema, non retrocede davanti alla spada. Sopra di lui tintinna la faretra, il luccichio della lancia e del dardo. Fremendo d'impazienza divora lo spazio e non si trattiene più al suono del corno. Al primo squillo di tromba nitrisce, ah! E da lungi fiuta la battaglia, gli urli dei capi, il fragore della mischia. È forse per la tua intelligenza che vola lo sparviero e spiega le sue ali verso il meridione? È al tuo comando che l'aquila si innalza e costruisce il suo nido sulle vette? Abita le rocce e vi pernotta su un dente di roccia inespugnabile. Dallassù spia la sua preda. I suoi occhi la vedono a distanza. I suoi piccoli succhiano il sangue. Dove sono i cadaveri, là essa si trova. Il Signore si rivolse a Giobbe dicendo: colui che disputa con l'Onnipotente si ritira? Colui che critica Dio voglia rispondere? Giobbe rispose al Signore così: ecco, sono ben piccino. Che cosa posso replicare? Mi porto la mano alla bocca. Ho parlato una volta, non insisterò. Una seconda volta, non aggiungerò nulla. Il Signore rispose a Giobbe dal turbine e disse: cingiti i fianchi come un eroe. Ti interrogherò e tu mi istruirai. Vorresti tu veramente cancellare il mio giudizio per condannarmi ed avere tu ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua? Ornati dunque di gloria e di maestà, rivestiti di splendore e di fasto. Riversa i furori della tua collera e con uno sguardo abbatti tutti i superbi. Umilia con uno sguardo ogni arrogante, schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Nascondili nella polvere tutti insieme, rinchiudi al buio i loro volti. Allora anch'io ti renderò omaggio, perché la tua destra ti ha dato vittoria. Ecco il behemoth che io ho creato al pari di te. Mangia erba come il bue. Osserva la forza dei suoi fianchi e la potenza del suo ventre muscoloso. Esso drizza la sua coda come un cedro. I nervi delle sue cosce si intrecciano saldi. Le sue ossa sono tubi di bronzo, le sue vertebre come spranghe di ferro. Egli è la prima delle opere di Dio. Solo il suo creatore lo minaccia di spada. benché i monti gli offrano i loro prodotti e tutte le bestie domestiche vi si trastullino, egli si sdraia sotto i loti, nel folto del canneto e della palude. Gli fanno ombra i loti selvatici, lo circondano i salici del torrente. Se il fiume si gonfia, egli non teme, è sicuro, anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca. Chi mai potrà prenderlo per gli occhi o con lacci forargli le narici? Puoi tu pescare con l'amo il Leviatan e con la fune legare la sua lingua? Puoi tu ficcargli un giunco nelle narici e con un uncino forargli la mascella? Ti rivolgerà egli molte suppliche e ti indirizzerà dolci parole? Concluderà egli un patto con te perché tu lo prenda come servo per sempre? Giocherai tu con lui come un passerotto e lo legherai per trastullare le tue figlie? Commerceranno con lui i pescatori e lo spartiranno tra i mercanti? Gli puoi tempestare di frecce le squame e colpire la sua testa con la fiocina? Metti su di lui la mano, pensa alla lotta. Non ricomincerai. Vedi com'è fallita la tua speranza. Al solo vederlo, uno resta sgomento. Nessuno è tanto audace da osare di provocarlo, e chi mai potrebbe resistergli faccia a faccia? Chi mai lo ha affrontato senza danno? Nessuno, sotto tutto il cielo. Non passerò sotto silenzio le sue membra, in fatto di forza non appari. Chi ha aperto sul davanti il suo manto ed attraverso la sua doppia corazza chi può penetrare? Chi mai ha aperto la porta delle sue fauci, circondate da denti spaventosi? Il suo dorso è una distesa di squame strettamente saldate con un suggello. L'una con l'altra si toccano, cosicché neppure il vento passa tra mezzo. Saldate le une con le altre, sono compatte e non possono separarsi. Il suo starnuto irradia luce ed i suoi occhi sono come le pupille dell'aurora. Dalle sue fauci partono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo come da pentola attizzata e bollente. Il suo fiato incendia carboni e dalle sue fauci escono fiamme. Nel suo collo ha sede la forza ed innanzi a lui incede il terrore. Le giogaie della sua carne sono ben compatte, sono ben salde su di lui e non si muovono. Il suo cuore è duro come pietra, solido come la macina inferiore. Quando si alza si spaventano i forti e per il terrore restano smarriti. La spada che lo raggiunge non gli si infigge né lancia né freccia né giavellotto. Considera il ferro come paglia ed il bronzo come legno tarlato. La freccia non lo mette in fuga. Le pietre della fionda si cambiano per lui in preda. La mazza è per lui come stoppia e si fa beffe del vibrare dell'asta. Sotto la pancia ha delle punte acuminate e come erpice striscia sul molle terreno. Fa bollire come pentola il gorgo e trasforma il mare in vaso d'unguento. Si lascia dietro una scia di luce e l'abisso sembra coperto di canizie. Non v'è nulla sulla terra che lo domini, lui che fu fatto intrepido. Su tutte le altezze egli guarda dall'alto, egli è il re di tutte le fiere superbe. Giobbe rispose al Signore dicendo: riconosco che puoi tutto e nessun progetto ti è impossibile. Chi è colui che denigra la provvidenza senza nulla sapere? È vero, senza nulla sapere ho detto cose troppo superiori a me